che blackout fosse soltanto una parola americana, una parola molto strana, come zapping o popcorn, o sa un cieco microchip. Ma capii con sgomento, quando ho visto tutto spento, che crack, che caos! Sesto piano, la mamma col bambino stava urlando in ascensore, disperata da due ore, al piccolo piccino che leggeva Topolino, proprio lì nell'angolino gli è scappato un bisognino. Che crack, che caos! Per la prima nazionale dell'atteso melodramma al teatro comunale, aspettando il grande acuto, quasi senza respirare, buio pesto nel finale, nel gran caos generale. Che crack, che caos! Sfogliando i quotidiani, finalmente si è saputo cosa mai era accaduto. Dalla Svizzera vicina era caduta una piantina su un traliccio alto e snello che ci ha mollati sul più bello. Che crack, che caos! Ed è certo molto strano che nessuno metta mano tra montagne di rifiuti e mari sempre più inquinati, e tentare di salvare questo mondo in agonia, e per dire tutto in coro, non è certo colpa mia. Che crack, che caos! Un blackout, un blackout, un blackout!